potremmo abboccare anche noi all'amo della pubblicità, a buffarci con quello che ci viene dato, ingrassare in cattività come pesci in un cazzo di lago artificiale. Ma come si può dire di saper nuotare se non si sa che cosa è il mare? E vivere così il più a lungo possibile, cercando sicurezza e compagnia, opinionisti non richiesti, esperti col master in vigliaccheria. Oh, potremmo rifiutarci di invecchiare se la saggezza è soltanto imparare a restare impermeabili alle ingiustizie, asciutti in mezzo al temporale. Ma non è, no che non è, tempo di metterci anche noi a fare i fenomeni. Lo so, è difficile essere uomini, bisognerebbe averne voglia. Viaggiare, sì, viaggiare, dolcemente viaggiare. Viaggiare apre la mente, sì, non solo, apre anche il culo, se nella testa non hai niente. Quante partenze inutili e movimenti incomprensibili, prevedibili, perché potremmo andare in agenzia, in luna di miele, in una casa in centro o in una fattoria, scoprire che al mondo non c'è fortezza che riesca a chiudere fuori dalle mura la nostra inconsistenza, sperare che un nuovo panorama ci svegli dal sonnambulismo e la nuova frontiera, sì. Ma non è, no che non è, tempo di metterci anche noi a fare i fenomeni. Lo so, è difficile essere uomini, bisognerebbe averne voglia, averne voglia, averne voglia, averne voglia, averne voglia.